Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Oggi abbiamo con noi Francesco Pedrini, lui è il presidente provinciale di AVIS perché parliamo di donazione di sangue. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a tutti, grazie. Ciao, è un piacere riaverti qui con noi. Ne abbiamo parlato non molto tempo fa in merito alla casa dei donatori di sangue. Oggi invece parliamo di donazioni in un periodo particolare che è quello relativo a questa epidemia in corso, dove ci sono delle restrizioni. Quindi vorremmo chiederti innanzitutto come stanno andando le donazioni in questo periodo. Ma in questo periodo io devo dire, prima di tutto, grazie ai nostri soci donatori, cosiddetti avvisini, per l'alto senso di responsabilità e consapevolezza dei bisogni dei malati. Desidero anche ringraziare i nostri volontari dipendenti che nelle nostre sedi associative, anche in questo periodo, hanno intensificato la loro attività per comunicare, ai nostri soci che la donazione del sangue non si ferma. Non ci sono problemi nel donare il sangue. Il Centro Nazionale Sangue, ci ha, evidenziato che l'epidemia di virus respiratori, ci sono evidenze scientifiche che non c'è trasmissione tramite la donazione e trasfusione di sangue. Quindi bisogna continuare a donare e facciamo un appello appunto a tutti i cittadini a diventare donatori di sangue, ai nostri donatori di continuare regolarmente a prenotare la loro donazione, perché comunque i malati continuano a esserci e continuano ad averne bisogno. Sì, diciamo che la richiesta è sempre la stessa perché comunque i reparti di terapia intensiva immagino lavorino esattamente come negli altri periodi, anzi se non di più. E invece le domande, le offerte, insomma, chi va a donare il sangue potrebbe essere magari un attimo più titubante, anche se, come hai appena detto, bisogna sfatare questa convinzione perché non cambia assolutamente nulla per chi vuole donare. Anzi, a maggior ragione, ti chiedo se puoi lasciare i contatti della vostra segreteria anche per nuovi donatori, perché magari si possono sentire portati a fare questo gesto di altruismo, a questo gesto di comunità, proprio in un periodo dove c'è particolarmente bisogno. Certo, ricordo anche che per donare è sufficiente essere maggiorenni, pesare almeno 50 kg ed essere in buono stato di salute. Normale, buono stato di salute, si può venire a donare, diventare donatori, prima si fanno gli esami, noi facciamo tutto su prenotazione per ottimizzare il servizio e basta telefonare allo 051 642 9303. Dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 17:45 dal lunedì al venerdì. Troverete i nostri volontari, i nostri dipendenti che risponderanno, prenderanno la vostra prenotazione per diventare donatori o se siete già donatori, come già tutti sanno, per prenotare la propria donazione di sangue o di plasma. Desidero anche aggiornare i donatori che ancora magari non sono riusciti a vedere il nostro sito con gli ultimi aggiornamenti, che lo manteniamo costantemente aggiornato, che il Centro Nazionale Sangue proprio ieri sera ha diramato un comunicato che la sospensione temporanea cautelativa per chi è transitato, ha soggiornato nelle cosiddette 11 comuni, 10 lombardi e 1 veneto, così chiamate zone rosse, è stata ridotta da 28 a 14 giorni. Quindi anche questo è un bel segnale, direi, per tutti, anche per i non donatori, vuol dire che le cose, mi viene da dire, stanno, anche se lentamente, Normalizzando. migliorando. Sì. E Quindi questo è importante. quindi sì, comunque l'appello è necessario lanciarlo in questi momenti perché appunto noi siamo una comunità, in Italia sono necessarie 1800, correggimi se sbaglio, Certo. casse, sacche. Sacche ogni giorno e quindi è necessario l'impegno di tutti, diciamo, gli abili arruolati, che insomma sono quasi tutti, visto che basta essere maggiorenni. Grazie intanto Francesco per essere venuto. Grazie a te. Mi permetto un ultimo appello. In sostanza, ricordo, chi è in buona salute può continuare a donare o diventare donatore. Non facciamo mai mancare a chi ne ha bisogno il nostro prezioso sangue plasma. Grazie. Grazie a voi.